Riprendere i lavori a partire dalla mia destra, padre Giulio Basetti Sani, che ci parlerà su silenzio e parola nell'islamismo, e seguitando il professor Arno Stigmaier, silenzio e parola nell'Antico Testamento, e infine Piero Rattin, silenzio e parola nel Nuovo Testamento. Direi, dato che abbiamo un leggero ritardo, di dare subito la parola a padre Giulio Basetti Sani. Dopo le prime due relazioni faremo una piccola pausa per riprendere nuovamente dopo una ventina di minuti con la relazione di Piero Rattin, a cui seguirà la comunicazione del professor De Rossi. Dunque la parola a padre Giulio Basetti Sani, il tema è quello annunciato già nel programma, silenzio e parola nell'islamismo. Si è visto già in questi giorni come il silenzio sia uno degli elementi importanti, essenziali in tutte le religioni, comportando diversi stati, lo stato permanente, personale e comune, il silenzio mistico e il silenzio divino. Il silenzio personale è una forma di autodisciplina, quello comune, solitario, comunitario, ha lo scopo di facilitare il mantenimento del silenzio da parte di individui e membri di una comunità. Presso i musulmani, presso gli arabi, presso tutti i semiti, il silenzio ha una grande importanza. Mentre penetriamo nel mistero del silenzio, il linguaggio determinato dal silenzio. Forse oggi questi momenti di riposo non li abbiamo quasi più, per cui resta difficile rifletterci sopra. Il silenzio non è del tutto un niente, come l'essenza non è del tutto una privazione. Sotto certi aspetti, il silenzio è più importante delle parole. Infatti, la mistica musulmana non termina nel silenzio, nel sighe, non nel sighe come dicono gli gnostici, cioè in una specie di essenza di comprensione, ma induce a un dialogo supremo. La vita divina è una comunicazione costante tra colui che parla, colui al quale si parla e colui del quale si parla, secondo la formula trinitaria cristiana. Ma in Dio c'è un'unica sostanza, un'essenza incomunicabile, e vi è in Dio qualche cosa di inesprimibile, di ineffabile, di essenziale, ma non genere né, non è né genere, non genera né generato, dice il Corano, che è permanente, definitivamente, totalmente trascendente. È questa la rivelazione dell'Islam, manifesta la sua fede, di cui la rivelazione negativa del mondo attuale tende a mantenere un morale nell'umanità. Il silenzio è ambivalente, quindi è evidente che mai noi non abbiamo trovato definitivamente la sicurezza. L'Islam semita non sembra razionale, perché i semiti chiedono i miracoli, come diceva San Paolo, mentre i greci domandano dei ragionamenti. Per l'Islam il miracolo è verbale, disjad, coranico. Le cose essenziali dell'Islam, la cosa essenziale dell'Islam è la lingua araba del Corano, che è un miracolo linguistico. Questo problema del silenzio, del sottointeso, è stato posto in maniera appassionante da un proverbio arabo. L'uomo che tace rifiuta, la donna che tace acconsente. Così una ditta che vorrebbe garantire una libertà precaria alla futura sposa, dice: quando il profeta pensò a fare sposare una delle sue figlie, si sedé presso il suo appartamento dicendo: se ad alta voce un tale ha pronunciato il tuo nome, se la fidanzata conservava il silenzio, l'affare era concluso. Così, quando Mohammed venne a consultare sua figlia Fatima per il futuro matrimonio con Ali, Fatima conservò il silenzio. Silenzio, dice padre Dammens, di sorpresa e di intontimento. Così il proverbio: l'uomo che tace rifiuta e la donna che tace acconsente, è una profonda parola, perché vi è tutta la distinzione dei sessi, è tutto il principio dell'anima dei confronti con Dio, perché l'anima è femminile. In ogni cosa questo proverbio è importante, perché questa opposizione infrafonologica del silenzio attesta la realtà, una del concetto di mutismo puro, in quanto differenza di modo sociale tra uomo e donna. Nel periodo preislamico della Jahiliya, in questo tempo precedente l'apparizione dell'Islam, alcuni Qurayshiti, probabilmente aderenti al movimento degli Hanif, monoteisti che non erano né ebrei né cristiani, i quali si ritiravano sul monte Hira, che sarebbe situato a 1 chilometro dalla Mecca, per fare una specie di ritiro nel raccoglimento e nel silenzio. Nella sira di Ibn Ishaq, antico biografo del profeta Mohammed, si ricorda una tradizione che riferisce che Mohammed aveva voluto ritirarsi sul monte Hira durante il periodo di 1 mese. In questo tratto di tempo distribuiva il cibo ai poveri e poi scendeva a fare il giro della Kaaba prima di ritornare a casa. Il profeta soggiornava sul monte Hira nutrendo i poveri che venivano a lui. Così Mohammed seguiva l'antico uso della sua tribù. E durante uno di questi soggiorni sul monte Hira, nel mese di Ramadan, ebbe la chiamata alla missione profetica. Un'altra tradizione ci dice che Mohammed amava la solitudine e soggiornava nelle caverne nel monte, accompagnato talvolta dalla sua famiglia. E questo ritiro è chiamato Tahannuf, perché, come si è detto, era praticato dagli Hanif. Ricevuta la chiamata in attesa, Mohammed venne da Khadija, la sua sposa, alla quale riferì l'accaduto, e poi, per suggerimento di lei e di Abu Bakr, fu accompagnato dal cugino di Khadija, il cristiano Waraqa ibn Nawfur, il quale assicurò il profeta che la rivelazione da lui avuta era autentica. Nella sura di Maria, la 19ª del Corano, si legge: qualora vedessi qualche uomo, digli: io in verità ho fatto voto al misericordioso di digiunare e non parlerò oggi con alcun uomo. Venne quindi col bambino dalla sua gente portandolo e dissero: oh Maria, tu hai fatto una cosa strana. Oh sorella di Aronne, non fu il padre tuo né uomo malvagio né tua madre dissoluta. Allora essa ditò il bambino, ma dissero: come parleremo con chi è ancora bambino nella culla? E questo è il silenzio di Maria ricordato nel Corano. Maria ha fatto voto di digiunare e di astenersi dal parlare. Il voto del silenzio è una forma di digiuno, che ha detto sì Aman. Questo silenzio permette alla parola divina di essere concepita in Maria. Il silenzio di Maria, nella tradizione del sciita particolarmente, viene messo in parallelo con quello della figlia di Mohammed e Fatima. Maria accenna designando Gesù, sostituisce la dialettica del discorso con la sua testimonianza silenziosa. Non parla, non spiega, ma mostra Gesù nel silenzio. L'imitazione del digiuno silenzioso di Maria è sempre attuale sino ad oggi. lo ritroviamo realizzato come pure presso gli sciiti negli ambienti mistici del sufismo. È chiamato il digiuno della Vergine Maria, il digiuno delle ragazze o il digiuno muto. Digiuno muto perché silenzioso come quello di Maria al Tempio, prima della concezione di Gesù. Molte ragazze sciite nell'Iran ne fanno anche oggi questo voto di digiunare col silenzio durante il mese di Rajab o di Shaban. Quando terminano il digiuno la sera, le giovani leggono e rileggono più volte la Sura di Maria o la Sura diciottesima dei sette santi dormienti di Efeso, dove si riferisce il dialogo di Elia al Kadir con Mosè. Queste due sure, la diciottesima e la diciannovesima, sono le due uniche che riferiscono dei karamat, miracoli santificanti, miracoli dimostrativi. La relazione che l'Islam vede tra Maria e Elia è sotto il segno comune del voto di verginità e del digiuno silenzioso, perché è nel silenzio che l'anima purificata e votata può concepire la parola divina e nutrirsi. Accanto a questo digiuno del silenzio mariano delle ragazze sciite, alcuni riti per le partorienti mostrano una devozione antichissima nella relazione tra Maria, madre di Gesù, e Fatima, trattate come cospose della luce profetica mohammediana. Abu Yazid al-Bistami, che visse quasi tutta la sua vita sulla montagna del Tabarain in Persia e morì nella sua città natale Bistami nel 260 dell'Egira, corrispondente all'874 dell'era nostra, nella solitudine, nel ritiro, fu una scena implacabile contro se stesso. Per 12 anni, dichiarava, sono stato il fabbro del mio io e per 5 lo specchio del mio cuore. Finalmente ho avuto un'illuminazione, ho considerato la creazione e ho veduto che era diventata un cadavere per me ed ho recitato su di essa 4 takbir, cioè l'ho seppellita e più non è esistita per me. Per la ricerca dell'unione con Dio dirà, nella solitudine e nel silenzio mi sono squamato del mio io, come un serpente si spoglia della propria pelle. Poi ho considerato la mia essenza e proprio io ero lui. L'esperienza di Bistami si concentra in locuzioni teopatiche, messe assai frequenti, dove il mistico parla come se fosse Dio stesso che parla. Scoppi di orgoglio strano sembra che attraversino le sue preghiere, secondo alcuni. Bistami fu il primo sufi che si impegnò a realizzare l'ascensione spirituale di Mohammed. Anche Ibn Mansur Khaldaj, questo martire musulmano, la prima volta che intraprese il suo pellegrinaggio alla Mecca, nel 270-272 dell'Egira, sull'esempio di Maria fece voto di rimanere un anno nel vestibolo del Tempio della Mecca in stato di digiuno e di silenzio perpetuo per 12 mesi. Gusto interiore, dolcezza della solitudine nel silenzio che aiuta alla formazione di una parola sostanziale nel cuore dell'asceta. In questo ritiro Al-Hajj sperimentò l'effusione dello Spirito di Dio in lui e per questo dinanzi ad un gruppo di persone dichiarava: se si gettasse sopra le montagne della terra un solo atomo di quello che contiene il mio cuore, esse si fonderebbero. Nel giorno della risurrezione, se io mi trovassi nel fondo dell'inferno, il fuoco ne sarebbe consumato e se io entrassi in paradiso, i suoi edifici crollerebbero. Poi recitò: io trovo strano che in me ciò che è tutto sia portato da ciò che non è, che una parte, mentre a causa del peso di questa mia parte, la terra mi viene incapace di portarmi. E Al-Hajj continuava: se un semplice quadrato di terra si fosse un luogo di riposo, dinanzi alla quiete degli uomini il mio cuore si troverebbe chiuso nelle inquietudini. Questa esperienza egli confessa di farla continuamente nella solitudine e nel silenzio. Io ho un amico e lo visito nella solitudine, presente anche quando sfugge allo sguardo. Egli è più vicino che la coscienza per l'immaginazione, più intimo nella scintilla dell'ispirazione. Dalla solitudine e dal silenzio, il Dio prende il cuore dei sufi e lo prova con la persecuzione. Così Allah poteva gridare: «Oh uomini, quando il Dio si impadronisce di un cuore, egli lo vuota da tutto ciò che non è lui. Quando egli si attacca ad un uomo, non lo lascia vivere per nessun altro che per lui. Quando prende ad essere uno dei suoi fedeli, incita gli altri a perseguitarlo, affinché il suo servo lo ricerchi e si avvicini sempre più a lui». Allah ha fatto poi un secondo e terzo pellegrinaggio alla Mecca. Condannato ad 8 anni di prigione, nella solitudine e nel silenzio, comunica continuamente con Dio in un'estasi, potremmo dire ininterrotta. I suoi colloqui con Dio ci sono stati trasmessi dal suo discepolo autorità autorizzato a condividere con lui la prigione. Ibn Ata, un altro amico e discepolo di Allah, volle ritirarsi per 40 giorni nella solitudine e si era adoperato per far liberare Allah. Venne convocato dinanzi a un tribunale che non arrivava a trovare testimoni di accusa contro Allah. In questa occasione Ibn Ata negava pubblicamente al visir Amir il diritto di giudicare la condotta di uomini venerati e santi, dei quali inoltre approvava la professione di fede. Ibn Ata, per ordine del visir, venne malmenato e morì sotto i colpi ricevuti. Egli aveva avuto un grande desiderio di essere provato come i profeti nel crogiolo della sofferenza. Era stato esaudito, contento di condividere la morte del suo amico, al quale aveva scritto 2 ammirevoli lettere. Lo aveva visitato clandestinamente nella prigione ed era morto per lui 5 giorni prima. La meditazione della sura 18 dei 7 dormienti di Efeso, che ogni venerdì viene fatta solenne lettura nelle moschee, ma il Signore l'aveva chiamata l'Apocalisse dell'Islam. L'assemblea ascolta con grande silenzio, invitata a meditare e a mettersi sotto la direzione spirituale del profeta Elia, il Kadir, in uno stato mentale di abbandono perfetto al volere di Dio. Il senso misterioso che culla i 7 giovani cristiani, i quali per sfuggire il sonno misterioso che culla i 7 giovani cristiani, i quali per sfuggire alla persecuzione si erano rifugiati e nascosti nella caverna, è l'invito ad un ritiro pio. Per loro, nel loro sonno, i 7 dormienti imparano dal profeta Elia la preghiera di intercessione comunitaria per chiedere il perdono in favore della comunità. Questa meditazione popolare, in uso da secoli presso la massa musulmana, ogni venerdì ha diffuso largamente la credenza del valore dei 7 nomi dei 7 dormienti, e la marina da guerra turca era dedicata ai 7 dormienti di Efeso. Questa meditazione popolare si è poi precisata mediante i mistici sunniti presso gli sciiti. In questa meditazione silenziosa, la caverna è vista come il rifugio dove si attende in silenzio il ritorno di Gesù al Mahdi, dando così una nota escatologica alla riflessione durante l'ascolto della misura nella fede alla risurrezione finale. Se ogni venerdì gli uomini delle moschee ascoltano in silenzio la sura dei 7 santi dormienti di Efeso, le donne del Cairo durante la notte tra il giovedì e il venerdì si recano al cimitero del Carafa. È un uso antichissimo, al tempo stesso una deroga alla legge sulla rottura del loro clausura, deroga concessa dallo stesso profeta a sua figlia Fatima. Le donne pregano in silenzio, soprattutto invocando la discesa di Dio misericordioso per il perdono che è un presagio della risurrezione. Queste donne vestono con abiti di festa. Il Cairo è la sola capitale musulmana dove le donne si recano in massa per pregare al cimitero. Alcuni giuristi hanno denunciato questo scandalo. Esempio di un sufi, Al-Ghazali. Al-Ghazali confessa tutto il suo itinerario interiore per considerarsi ad abbandonare tutto, decidersi ad abbandonare tutto in Baghdad e ritirarsi a vita di solitudine e di raccoglimento. Osservai, scrive con attenzione, il mio stato d'animo ed era immerso e circondato da ogni parte in legami. Considerai attentamente la mia azione, le migliori delle quali erano l'insegnamento e l'istruzione, ma era applicato anche in quelle a condizioni meno importanti e inutili alla via verso l'aldilà. Poi riflettei sulla mia intenzione nell'insegnamento ed essa non era pura al cospetto di Dio, ma il suo pungolo ed il suo movente erano la ricerca e l'onore e la diffusione della mia fama. E fui certo di essere sull'orlo di una riva franata come sospeso sul fuoco dell'inferno e non cessai di riflettere su ciò un certo tempo, giacché mi trovavo nella situazione di scegliere e non cessai di essere combattuto tra l'attrazione delle pressioni mondane e gli impulsi verso l'altra vita, circa 6 mesi, a cominciare dal mese di Rajab. In quel mese passò la cosa nell'ambito della scelta e a quella della contrizione, e Dio immobilizzò la mia lingua e fu impedito dell'insegnare, e quell'unico giorno che mi sforzai di farlo per consolazione dei cuori di quanti mi seguivano, la mia lingua non spiccò una sola parola, perché non vi riuscissi in nessun modo, finché questo nodo alla lingua originò una tristezza infinita. Entrai in Siria, rimasi circa 2 anni, senz'altro occuparmi il ritiro e la solitudine, e gli esercizi e gli sferzi ascetici, occupandomi del correggere l'animo, nel rettificare le mie abitudini, nel purificare il mio cuore per mezzo del costante ricerca di Dio, come avevo appreso dalla scienza dei sufi. Per un certo tempo avevo preso dimora nella moschea di Damasco, salendo sul minareto della moschea, rimanendovi tutto il giorno. Da Damasco Al-Ghazali va a Gerusalemme, dove si ritira nella moschea di Omar. In seguito mi recai alla Casa Santa, Gerusalemme. Entravo ogni giorno nella roccia e chiudevo la porta dentro di me. Mi mosse in me impulso a compiere il pellegrinaggio per ottenere l'assistenza della benedizione della Mecca e di Medina, e a visitare il sepolcro del profeta di Dio, dopo aver compiuto la visita all'amico di Dio, Abramo, in Ebron, e mi diressi verso Vigiaz. Perseverai in questo stadio 10 anni. Mi furono svelati in questi ritiri cose che non è possibile enumerare e comprendere a fondo. Questo è quanto menziono perché se ne tragga profitto. Ho conosciuto con certezza che i sufi camminano sulla via di Dio in maniera speciale. La loro vita è la migliore delle vite, la loro via è la più giusta delle vie e la loro abitudine la più virtuosa delle abitudini. Occorrerebbe ricordare tanti altri sufi che ebbero l'amore alla solitudine e al silenzio per un abbandono completo in Dio basato su un desiderio dei mali. Basterà ricordare Ibrahim Kawas, che aveva aderito ad una regola carraniana proibendosi di guardare a qualsiasi cosa e di parlare a chiunque. La parola nell'Islam. Per l'Islam il valore della parola è visto sempre in relazione alla parola di Dio, un assoluto che è conservato nella smada del libro Ummul Kitab, è stato fatto scendere mediante l'angelo Gabriele sul profeta Muhammad, il Corano. Per i musulmani il carattere miracoloso che dimostra l'origine divina del Corano è il miracolo della sua inimitabilità. Se tutti gli uomini, si dice, riunissero i loro sforzi, non riuscirebbero a comporre qualche cosa che possa essere messo al pari del Corano, poiché è un libro sovraumano comunicato da Dio. Questo miracolo, la sua inimitabilità, è la prova necessaria e sufficiente per i musulmani della genuinità della parola di Dio. Il Corano è il modello che forma la mentalità dei musulmani. Viene considerato come il tutto di quanto gli uomini devono sapere per raggiungere la vita futura. Lo stile sentenzioso invita alla meditazione sull'onnipotenza di Dio e del suo governo nel mondo. Mettendo sullo stesso piano le tre religioni abramitiche, scriveva Massignon, distinte bene inteso dalle altre religioni, io considero l'esistenza di una ispirazione del Corano, negata generalmente dai cristiani e dagli ebrei, come l'ispirazione dei Vangeli e negata da Israele. La lingua araba del Corano è segnata dal sigillo dell'ispirazione, non soltanto perché le sue parole decifranti, Corano, sono prese non senza indurimento dall'aramaico cristiano o israelita, o perché l'arabo è la più arcaica e la più pura delle lingue semitiche, ma soprattutto perché l'arabo coranico è sotto la pressione dell'angoscia di un atto di fede monoteista, di abbandono disperato a Dio solo, slancio di devozione teocentrica che non può non essere ispirato. La lingua classica araba fu all'inizio una lingua comune, una koiné poetica formata dagli arabi della Hijaz centrale sino alla regione dell'Eufrate, lingua dei rapsodi, lingua dell'antica poesia preislamica, e in questa lingua Mohammed ha predicato le sue rivelazioni, dando la forma di bella lingua. Ai grammatici arabi, soprattutto quelli di Basra, si deve il ruolo normativo di questa lingua poetica, ed è su questa lingua che hanno costruito le grammatiche. Il Corano ha consacrato questa lingua col suo prestigio religioso, e in tutto il lavoro dei grammatici si deve notare la preoccupazione arcaicamente. La vera lingua araba non è stata studiata minuziosamente, catalogata, fissata, ma è solo quella dell'antica poesia consacrata dal Corano. E Dio ha dato all'uomo la parola perché lo lodi e lo glorifichi, perché conti le bellezze, canti le bellezze del creato. Questa lode di Dio si fa ripetendo continuamente il suo nome, Allah, nell'atto che è chiamato Zikr, azione di ricordare. Zikr musulmano sembra abbia origine dall'orazione esicastica e della preghiera di Gesù. Quanto alle formule del Zikr, viene lasciata una grande libertà. Dio è il suo nome, o il nome del profeta, uno dei nomi divini, o uno degli attributi divini o attributi del profeta. Di fatto, per il Zikr collettivo, le confraternite impongono ai loro adepti una o più formule fisse. Per i principianti viene considerata la prima parte della Shahada e professione della fede. La ilaha illallah, non c'è divinità altro che Dio. I proficienti useranno di preferenza il nome divino, Allah, per colui che sarà ancora più avanzato nella via della perfezione, come omaggio all'ineffabilità divina, è consigliato il semplice Hua, e lui, o anche Allah, la verità. Si consiglia di tenere gli occhi chiusi e di rappresentarsi mentalmente il proprio maestro spirituale, certo, in modo che attualizzare il vincolo fra discepolo e maestro e da ricevere l'influsso benefico di quest'ultimo, il quale lo riceve direttamente dal profeta Muhammad. Esiste da secoli tutta una letteratura teologica sul valore e la natura della parola di Dio contenuta nel Corano. L'ortodossia musulmana considerava la parola come un attributo stesso di Dio, per cui come tale non ha avuto inizio né ci è mai stata interrotta, come gli attributi della scienza, della potenza e le altre qualità nella sua essenza infinita. Il Corano è una manifestazione di Dio che parla, quindi esiste per tutta l'eternità. Perciò il Corano viene considerato increato. I Mu'tazili, una scuola coranica che è considerata un po' razionalista, vedevano in questa dottrina una violazione del monoteismo puro. L'attribuire antropomorfico della parola prestata a Dio nella missione di una entità eterna accanto a Dio rivedevano la soppressione dell'unità dell'essenza divina. Perciò essi ritenevano che il Corano era creato, una voce creata. Quando Dio vuole manifestarsi foneticamente al suo profeta, conferisce con un atto creatore speciale la parola ad un substrato materiale, e questa parola che il profeta ascolta. Quindi, secondo i Mu'tazili, non è la parola immediata di Dio, ma una parola creata da Dio manifestandosi nel suo farsi conoscere per indirettamente che è corrispondente alla volontà di Dio, di cui la speciale considerazione e venerazione che i musulmani, particolarmente gli arabi, hanno per la lingua araba, Allah, lingua di Dio. E come i rabbini insegnavano che la lingua ebraica era la lingua parlata da Dio e dagli angeli nel cielo, i dottori musulmani affermavano invece che la lingua di Dio e degli angeli in cielo era una lingua araba. Le discussioni teologiche sul carattere eterno e creato del Corano non sono ancora oggi finite. È molto più interessante studiare l'evoluzione della coscienza musulmana nella esperienza vissuta con la meditazione del Corano. Più che i teologi furono i sufi mistici che si dedicarono allo studio del vocabolario generando un nuovo lessico, suscitando inoltre uno spirito d'analisi esistenziale e dando così origine ad un linguaggio nuovo nell'Islam, quello che è il simbolo. Come si è accennato, lo studio sul Corano ha fornito alle coscienze musulmane gli elementi di base per una comprensione religiosa del mondo. Questo studio sul Corano può farsi analizzando il Corano per cogliere i germi di una vita spirituale e le possibilità che la sua meditazione offre al musulmano per svegliarsi ad una vita religiosa che oltrepassi il puro legalismo. Un secondo modo per fare questo studio sul linguaggio del Corano può essere quello di interrogare non il Corano direttamente, ma la comunità che lo legge e medita il Corano come il suo libro sacro. Si può allora vedere quello che la comunità musulmana ha cercato e trovato nella sua lettura del Corano. Egli è in questa prospettiva storica che si deve risalire alle origini, interrogando i più antichi commentatori del Corano. Un'esegesi che non è puramente letteralista né mistica è per esempio quella di Mu'tazili ibn Sulayman, morto nel 150 dell'Egira, 700 anni dopo Cristo, e aperto al lavoro dell'immaginazione, accoglie in sé gli elementi allegorici e mitici che preparano ulteriori sviluppi dell'esegesi. Così Mu'tazili scopre nel Corano una pluralità di sensi che porta in sé la possibilità di molteplici letture del Corano, diversi aspetti del vocabolario coranico. Una lettura lineare del Corano scopre nelle parole una struttura di sensi con significati sovrapposti ed estrinseci gli altri. Una lettura introspettiva nel momento in cui l'esperienza spirituale divina, principio di ermeneutica, avendo avuto notevole influenza negli ambienti sufi, segna l'inizio di un linguaggio mistico preferibile con precisione. Si tende allora a pensare ad una lettura introspettiva del Corano, ad una ermeneutica dell'esperienza, e a misura che l'esperienza si arricchisce, essa crea il suo proprio linguaggio, allontanandosi a poco dal vocabolario coranico. Il musulmano è l'uomo che si sottomette alla legge e che in questa sottomissione trova la sicurezza che offre la comunità umma. Ma vi sono stati e vi sono ancora oggi coloro che umilmente e con perseveranza continuano il loro cammino di rilettura e di interpretazione del linguaggio coranico nel simbolismo fuori dai sentieri della legge, guidati dalla fiamma che brilla nel fondo del loro cuore. Vanno così al di là della legge per praticare una religione personale, frutto di questa lettura introspettiva del testo sacro, vissuto con la propria esperienza religiosa. Entravano in crisi tutte le certezze sulle quali erano fondate le sicurezze dell'umma. Questa situazione viene illustrata da un testo di Mansurallagge, nel quale si riflette non soltanto sui problemi che erano quelli di Allagge, ma si chiarisce il destino tragico di tutte le vocazioni mistiche dell'Islam. Instaurare la legge come fa il Corano sotto sette secoli dopo che era stata abolita dal cristianesimo costituisce un atto anacronistico. Il Dio che viene riscoperto dai sufi non è quello che confessa la pietà e che nega l'impietà. Il linguaggio dell'uno e dell'altra resta astratto. I sufi vanno al di là delle apparenze e colgono il Dio simbolicamente. Si è accennato al senso e al valore del silenzio come espressione di raccoglimento per la ricerca di Dio anche nella religione dell'Islam. Si è messo in rilievo il valore del silenzio negli ambienti dei sufi, quale mezzo per entrare in comunicazione con l'ascolto della parola di Dio sull'esempio di Maria, Vergine e Madre di Gesù. Ma se il silenzio mantiene tutto il suo carattere religioso, la parola, soprattutto nella lingua araba, viene considerata l'espressione con la quale Dio stesso si serve per comunicare il suo pensiero all'uomo. Il carattere divino che la fede musulmana riconosce al Corano ha spinto i teologi musulmani a considerare a considerazioni tutte particolari sulla lingua araba e su ogni parola divina del Corano, venerata come la lingua di Dio. Sia il silenzio che la parola sono quindi considerati nell'Islam nel contesto di tutta la sacralità riconosciuta a tutta la realtà creata. Grazie. Grazie a tutti.